Dario Ricci. Ronaldinho, ancora Ronaldinho, Samba d'un, Samba da dos, Ronaldinho, llença Ronaldinho, gol! Frontal en el otro lado, donde Ronaldinho ha conseguido controlar el lanzamiento de Ronaldinho, gol, gol del Barça, ha llegado el tanto de Ronaldinho, controló el balón, buscó el disparo con la pierna derecha y superó a Palop, un golazo para el Barça. Ronaldinho contra Sergio Ramos, se le va a ir, atención que es un 3-2, puede buscar distintas opciones, Ronaldinho que se va solo, Ronaldinho, golazo, golazo, golazo de Ronaldinho. Davvero per alcune indimenticabili stagioni all'inizio degli anni 2000 è stato il calciatore più forte al mondo, fino a vincere la Coppa America del 99, la Coppa del Mondo col Brasile nel 2002, la Champions League col Barcellona e la Libertadores con l'Atletico Mineiro, il Pallone d'Oro nel 2005 e due volte il FIFA Worst Player. Superata però ora la soglia dei 40 anni, Ronaldo de Assis Moreira, in arte Ronaldinho, fa parlare di sé più per la cronaca giudiziaria che per quella sportiva, visto il suo recente arresto da parte delle autorità paraguayane con le accuse di uso di falso passaporto e riciclaggio. La felicità del pobre parece la grande illusione del carnaval. Ascesa e declino di un asso del calcio che proviamo a conoscere un po' meglio oggi a Olimpia, grazie anche a un ospite d'eccezione che ci raggiungerà nella seconda parte, E senza dimenticare, e come sarebbe possibile appunto, che la stella di Ronaldinho ha brillato, seppur per un periodo troppo breve, a fasi alterne, anche nel nostro campionato con la maglia del Milan. Dal 2008 al gennaio 2011 in rosso-nero Ronaldinho ha giocato 94 partite e realizzato 26 gol. Prima di farlo girare e chiede desire alco a tua fission. Adesso gli ho chiesto di dire qualcosa a voi. Bueno, buonasera a tutti. Grazie mille. Forza Milan. Ronaldinho! È il 17 luglio del 2008 e il popolo rossonero entusiasta gremisce San Siro per salutare il suo nuovo fenomeno. Poco prima Adriano Galliani aveva porto al brasiliano, appena sbarcato a Milano, la penna per sottoscrivere quel contratto che lo legherà al diavolo, dopo che il Barcellona ha sacrificato il suo idolo sull'altare del talento nascente di un certo Lionel Messi. Caroni, metti una sigletta qua. Pensate che sono molto felice perché si corona un sogno che durava da diversi anni. In questi oltre 22 anni della presidenza di Silvio Berlusconi, appunto che risale al 20 febbraio dell'86, credo che non abbiamo mai corteggiato un giocatore così tanto come Ronaldinho. Ronaldinho dichiarava il suo amore per il Milan il proprio amore per Ronaldinho, e il giocatore non arrivava. E finalmente dopo tre anni, soprattutto gli ultimi tre anni di serrato corteggiamento, finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente possiamo annunciare che Ronaldinho è un giocatore del Milan. Trattativa complessa quella che porta Ronaldinho in rosso-nero, come rileva lo stesso Galliani durante la conferenza stampa ufficiale. Ho temuto di perdere Ronaldinho, sì, ho temuto soprattutto martedì sera perché è evidente ed ovvio che Barcellona tifava, è anche logico, per il Manchester City, che offriva una cifra molto superiore alla nostra, confidando sul fatto che magari prima o poi Ronaldinho cedesse, se il Milan si ritirava, e finisse a Manchester City. Quindi loro hanno fatto di tutto per convincerci ad andare via. La notte di San Siro resta indimenticabile nella storia di un club che pure di assi ne ha visti sfilare su quel prato. Sorriso e classe, i tratti distintivi di Ronaldinho, intervistato qui da Alessandro Bonanni, Alessandro Alciato per Sky Sport. Oh, Alciato, è lì? Ci sei? Sì, sì, sono qua. No, perché per un attimo ho visto la faccia di Ronaldinho, mi sono quasi spaventato dall'emozione, volevo dire questo. Allora, ci racconti un po' l'atmosfera lì insieme a Ronaldinho? Tanto vi giuro che è vero, insomma, è lui, è proprio lui, sì. È al Milan, ride, quindi è lui perché ride sempre. L'atmosfera è veramente un'atmosfera che non si vedeva da tempo, dai 5.000 tifosi ieri a Milanello, i 30.000 di questa sera, un'emozione per chi la può vivere, un'emozione credo anche per Ronaldinho, una serata così, una giornata come ieri. Sì, è un momento speciale, no? Tanto ayer como hoy, desde el primer minuto que bajé del avión está de esta forma, entonces estoy contentísimo y bueno, muy emocionado. Espero continuar pasando alegría a todos que están ahí pasando toda esta energía positiva. Alessandro, fra l'altro, allegria è la parola che sta usando di più in questi giorni. Ronaldinho non è che finge, Ronaldinho è proprio allegro, vuole portare allegria, probabilmente ci riuscirà vedendo quello che sta succedendo fino a queste ore, fino a questo momento. La famiglia credo che sia importante, te la porti tutta a Milano? Sì, importantissimo, mia famiglia sempre junto conmigo, entonces sempre mi ha aiutato molto e bueno, seguimos junto ora in nostra nuova etapa con il Milan. Sei più forte tu o Kakà? No, io quero ajudar o Kaká a ser lo mais forte sempre. Pai, meu irmão, pegue esse avião, você tem razão. Trio delle meraviglie, quello tutto verde-oro formato da Ronaldinho, Kakà e Pato in quel Milan, ancora ricco di campioni e allenato da Carlo Ancelotti, che chiude al terzo posto il campionato. Ma i vertici del club, a partire dal presidentissimo Silvio Berlusconi, vogliono una svolta tattica per l'anno successivo e scelgono per la panchina Leonardo. Tra brasiliani l'intesa nasce spontanea e Ronaldinho ripaga il connazionale con un'annata da protagonista, con 12 gol e altrettanti assist, che portano il Milan non al titolo vinto dall'Inter del triplete, ma ancora al terzo posto e alla qualificazione per la Champions League. Ma l'ultima giornata del torneo è dolce amara. A San Siro il Milan batte 3-0 la Juventus con doppietta di Ronaldinho. Ma l'addio alla panchina di Leonardo è ormai certo, così come è chiaro che il CT della nazionale Dunga non convocherà lo stesso Ronaldinho per gli imminenti mondiali di Sudafrica 2010. Nel dopogara, ancora al microfono di Sky Sport, l'amarezza di Digno è evidente. Ovviamente con Ronaldinho partiamo da qui. Se ne va Leonardo, come vivi tu questa scelta? Perché tu sei il giocatore simbolo di Leonardo, sei quello che non ha mai tolto, sei quello che ha fatto rinascere, sei quello che ha fatto tornare a essere Ronaldinho. Oh no. Io veramente è stato bellissimo lavorare con lui, un amico. Io adesso è rispettare quello che è la scelta di lui. No, è buono, è mio amico, io voglio vedere felice se non è qui, un altro fianco, non lo so dove, ma veramente bisogna parlare che ringraziare per tutto che lui ha fatto per me, è stato veramente un piacere lavorare con lui. Il Milan, diciamo che non ha ancora un allenatore ufficialmente per la prossima stagione, tu chi vorresti vedere? Molti dicono Tassotti, è pronto per allenare il Milan. Sì, Tassotti è prontissimo, c'è tanta esperienza, ha lavorato tanti anni insieme con... No, con Ancelotti, tanti anni dentro del calcio, ma non lo so chi viene il prossimo anno, penso che nessuno lo sa ancora. E adesso è prendere le vacanze e aspettare le cose che viene per il prossimo anno. Due domande su di te, poi ti lascio andare. La prima riguarda Dunga, non ti porterà al mondiale, come hai vissuto questa situazione? Perché tu ci tenevi tantissimo. La mia risposta è qui, dentro il campo. Io vengo qui, se lui pensa che questo che faccio adesso non è sufficiente per andare in nazionale, è una scelta di lui e rispetto molto. Io continuo a pensare che è stata una bella stagione, che ha fatto tante cose buone. Non voglio comparare quello che gli altri hanno fatto, che cosa io ho fatto io, se loro non hanno fatto la stessa cosa che io, molto più, molto meno. Voglio giusto stare tranquillo in testa di questa stagione che ha fatto. L'ultima e la più difficile, risposta velocissima. Nella prossima stagione sarai al 100% al Milan, perché si parla molto del tuo rinnovo. Non lo so. Quando ela danza no espaço, meu corpo perde o cansaço, meu lábio teme sorrir. Sulla panchina rossonera arriverà invece quel Massimiliano Allegri che tanto bene aveva fino a quel punto fatto sulla panchina del Cagliari prima e Sassuolo poi, e che regalerà al diavolo quello che finora è l'ultimo scudetto della sua storia. Un titolo che non vedrà protagonista però Ronaldinho. Tra incomprensioni col nuovo tecnico e uno stile di vita che riporta alla luce antichi vizi del pur fenomenale brasiliano. A novembre, dopo una serie di gare da riserva, Ronaldinho si fa beccare da qualche cellulare in una nottata milanese un po' sopra le righe. Le voci di un addio anticipato si fanno sempre più insistenti e le parole di Allegri non le smentiscono di certo. Credo che nel Milan ci devono stare giocatori che hanno voglia di stare nel Milan, perché i giocatori se contro voglia, io sono il primo, ma la società ancora prima di me terrebbe un giocatore contro voglia nel Milan, anche perché i risultati si ottengono oltre alle qualità tecniche, ma soprattutto alle grandi motivazioni che uno deve avere dentro. E quindi tenere i giocatori contro voglia sicuramente è controproducente. A poco serve anche la difesa d'ufficio da parte dello stesso Silvio Berlusconi in diretta telefonica al processo del lunedì di Aldo Biscardi. Abbiamo dei campioni che credo le altre squadre ci debbano invidiare. Quando Ronaldinho, che io stimo molto, che ho acquisito al Milan perché durante tra l'altro la campagna elettorale del 2008, quando andavo dovunque in Italia, al nord, al centro, al sud, tutti i miei sostenitori, anche milanisti, mi dicevano due cose: liberaci dai comunisti e compraci Ronaldinho. Io ho fatto entrambe le cose assolutamente convinto e dico subito che Ronaldinho non lo cambierei oggi con i suoi 29 anni, ma integro assoluto dal punto fisico con nessun altro. La rottura si concretizza nel mercato invernale. Il Milan si invola verso lo scudetto, Ronaldinho fa le valigie e torna in Brasile, al Flamengo, per 3 milioni di euro. Ne era costati 22. Tra alti e bassi, Digno continuerà a essere croce e delizia di allenatori e tifosi in giro per il mondo. Sempre con la magia tra i piedi, il sorriso sulle labbra e un pezzo di diavolo nel cuore. Io non sono uno di guardare sempre calcio, mi piace vedere dei migliori momenti, di vedere dei gol. Guardo perché ho giocato lì, ce l'ho tanti amici che lavorano ancora di là, e il calcio è così, ogni volta si cambia tutto, e buono, vedere come va a venire il futuro del Milan. Folle, sorridente e umile Digno. Con un'umiltà e un sorriso risponde ancora oggi così a chi, abbagliato dalla sua classe, gli chiede quale sia il suo posto rispetto a Pelé e Maradona nella storia del calcio. A guardare loro. No, sono tutti e due i più grandi della storia. Io sono felice di fare la mia parte in tutte le squadre che ho passato, ma loro sono un altro livello. Qualche istante di pausa ora, poi ancora insieme qui a Olimpia tra le prodezze e i segreti di Ronaldinho. Olimpia. Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan-Inter, derby 269, buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. È tutto pronto, stiamo per allacciarci le cinture e partire, sarà un derby spettacolare perché ci sono in campo tutti i campioni possibili. Partire Ronaldinho, lo aspetta Vieira, Ronaldinho, triangolo con Kakà, dentro ancora per Kakà il pallone, al centro ceppato Kakà, prova ad andare fino in fondo, Kakà ancora, Ronaldinho! Cosa ha preso Giulio César? Ronaldinho si gira, Vieira deve prendere Ambrosini che sta arrivando, Ronaldinho un po' di campo, il suggerimento è per Kakà, Kakà in posizione regolare, ho qualche dubbio, ancora Kakà, uno contro uno, cerca il traversone, Ronaldinho, 1-0, Ronaldinho! Il rinvio di Abbiati si gioca ancora, colpo di testa di Shevchenko, il derby. Milan batte Inter 1-0. 28 settembre 2008, derby di Milano a San Siro. Il Milan si impone per 1-0 grazie a un colpo di testa di Ronaldinho, idolo sbarcato in rossonero appena due mesi prima, dopo la lunga e complessa trattativa col Barcellona. Sembra l'inizio di una nuova era di successi per Digno e per il Diavolo, ma già a gennaio 2011 sarà addio dopo due terzi posti in campionato e tante piccole e grandi incomprensioni. Ronaldinho andrà al Flamengo, il Milan sotto la guida di Allegri si involerà verso quello che ad oggi è l'ultimo scudetto della sua gloriosa storia. Ancor più che le prodezze di un compagno di squadra tanto fenomenale, quello che ha lasciato Ronaldinho in chi ha condiviso con lui quelle stagioni in rossonero è il ricordo di un sorriso che era vero e proprio un marchio di fabbrica dell'asso brasiliano. Rino Gattuso lo ricorda così, con ironia, sottolineandone le caratteristiche personali, ma anche il genio calcistico. innanzitutto era un ragazzo che si faceva voler bene da tutti, già quando un campione sicuramente forte, fortissimo, uno dei più 10 giocatori più forti al mondo del gioco del calcio, ma dopo aveva la dote, era quella di farsi volere bene, di farsi amare. E non l'ho mai visto arrabbiato, sempre col sorriso, tante volte gli dicevo che cazzo c'aveva da ridere, capisci? Questo era Ronaldinho. Chapeau per tutto quello che ha fatto. Dopo ci ho giocato contro, ho beccato 4-5 elastici, palla c'è, palla non c'è, che ancora mi sta girando a testa quando giocavo a Barcellona. Un anno l'ho beccato in tournée, eravamo appena arrivati, avevamo dormito solo 7-8 ore, cioè, e l'ho beccato e mi ha fatto scemo, vedevo, ho chiesto il cambio perché ho fatto finta che mi faceva la caviglia, perché non me l'ha fatta mai vedere quel giorno, no. E ci ha raggiunto ora qui a Olimpia un ospite d'eccezione, leggenda rossonera e capitano proprio di quel Milan targato nella seconda stagione, Ronaldinho. Massimo Ambrosini, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Ciao a tutti e un buongiorno. Massimo, campione davvero e comunque speciale Ronaldinho, pure in un Milan di tanti campioni. Assolutamente sì, per quello che ha rappresentato, per quello che ha fatto e anche per come lo ha fatto, perché comunque era una... È stato un modo di capire, di vivere la professione e di vivere il talento che il buon Dio gli aveva donato in un modo unico. Fenomeno che ha fatto del sorriso, dicevamo, anche in questo periodo per lui difficile, il suo tratto distintivo. Ed è quello quando parlo di interpretazione, nel senso che già l'indole della provenienza, cioè dell'essere brasiliano, lo portava a essere naturalmente allegro e felice. Poi lui ci aggiungeva insomma la costanza che ci metteva nell'interpretare qualunque cosa con il sorriso. Fece innamorare in tanti con le sue prodezze, Digno, il presidente Berlusconi in primis. Molto, da profondo esteta e cultore dell'estetica, era molto propenso a questo tipo di giocatore, di giocate, e amava circondarsi del bello, il nostro presidente. Ecco, come entrò in quello spogliatoio, nel vostro spogliatoio? Allora, era un ragazzo molto intelligente, sensibile, e secondo me ebbe l'umiltà e l'intelligenza di capire che insomma entrava in uno spogliatoio comunque di personalità importanti, in una squadra già forte. E quindi fu giusto che lui si mettesse anche a disposizione a un certo punto di vista, soprattutto all'inizio del gruppo, che lo accolse come tutti i grandi gruppi poi accolgono e riconoscono una personalità di un certo tipo, e col tempo poi quel gruppo ha imparato anche a concedere qualcosa al tipo di giocatore. Non facile però inserirlo dal punto di vista tattico, come ci provaste? Gli davamo la palla e dicevamo fai te. Fondamentalmente no, con il tempo alla fine è stato anche più lui che si è un attimino adattato. Poi un conto sono le partite, un conto sono gli allenamenti, sai, poi dopo ti rendi anche conto che è quello che puoi concedere durante un allenamento, no, glielo concedi di meno in partita, ma lui era, diciamo, anche lui secondo me con il tempo ha capito questo, cioè nella serie poteva succedere che qualche volta, qualche allenamento, l'intensità non fosse delle migliori, però quando poi c'era da fare sul serio o la partita richiedeva certe cose, lui devo dire che difficilmente ha sbagliato. Indimenticabile è poi quel derby vinto col suo colpo di testa. Ma anche se non sbaglio era la prima, forse una delle prime partite sue quella, se non sbaglio, perché il derby arrivò all'inizio stagione, quindi immagino che anche per lui insomma presentarsi come primo grande appuntamento a San Siro con un gol nel derby, diciamo che fu un ricordo notevole. Nel tuo ruolo di capitano nella stagione 2009-10 hai avuto con lui un rapporto più diretto? Come hai provato a spiegargli l'universo Milan? Cercavi un attimino, come tutti, di fargli capire alcune dinamiche che ci sono all'interno di una grande società come il Milan. Però ti dico che è un ragazzo intelligente, insomma ha capito anche lui come porsi e cosa doveva fare. Ecco, sono generalmente su queste personalità, la frase che viene detta che più secondo me appartiene a queste personalità è un ragazzo che si fa voler bene, ecco, non difficilmente aveva atteggiamenti da parte, come se fosse un divo, non so come dirti, però in realtà sapevi che dovevi concedergli qualcosa, però era anche tanto quello che lui ti ha dato nell'arco del periodo in cui è stato con noi. Poi di lì a poco arrivò un addio traumatico, brusco. Un insieme di cose, poi le motivazioni fanno anche la differenza. Lui storicamente, come ragazzo, aveva, diciamo, ciclicamente bisogno anche di altri stimoli, di cambiare aria. Il Milan aveva cambiato modo di fare, all'interno del cambiamento lui era stato inserito, per parte del primo periodo di Allegri lui giocava. Poi giocava, poi ci si è resi conto che strada facendo c'era bisogno anche di qualcos'altro, e uno come lui magari si faceva più fatica a pensare che non fosse coinvolto sempre. Ecco, senti, la sua giocata indimenticabile che ancora oggi ti viene in mente. Ho fatto un tunnel di suola andando al contrario rispetto alla direzione della porta, se non sbaglio, in casa con il Chievo, a centrocampo, quando non c'entrava oggettivamente nulla, ma era una di quelle giocate che erano realmente, non servivano a nulla se non a far applaudire la gente, tornare a casa e dire fammela rivedere perché non ho capito quello che ha fatto. Quando Digno vestiva ancora la maglia del Barcellona, poi lo avevi affrontato anche da avversario, giusto? Sì, e ci ha fatto anche gol in una partita che per noi contava poco, invece per loro tanto. Ci ha fatto gol al 90esimo, no, quando era Barcellona era secondo me ancora di più un giocatore di livello pazzesco. Che segno ha lasciato secondo te Ronaldinho nel calcio mondiale? Ma un grande segno, il segno che c'è la tecnica, la tattica e la gioia di poter giocare al pallone al massimo livello, unite a qualità fisiche, perché probabilmente ci si dimentica, secondo me, o comunque si tende poco a far capire quanta forza avesse nelle gambe, che gli permetteva anche quelle giocate. È un giocatore a cui il buon Dio, ripeto, aveva donato qualità tecniche evidenti e anche fisiche, perché aveva delle gambe che gli permettevano di non farsi spostare. Quando metteva il culone lì, è duro che riuscivi a spostarlo. Massimo Ambrosini, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.